un commento breve e dal vivo sull'articolo che compare oggi tra gli altri sulla pagina d'apertura di Reporter Associati, forse con eccesso di zelo lo abbiamo intitolato 747, come a suggerire l'eventualità della caduta di un Boeing, in realtà il vero scopo dell'articolo era comunque quello di rimarcare il contenuto del comunicato e soprattutto i suoi tempi. Si tratta di un comunicato emesso in piena notte dal Dipartimento di Stato americano che ha ritenuto opportuno gettare l'allarme e avvertire i cittadini degli Stati Uniti che dallo scorso sabato e misteriosamente sino al prossimo 5 marzo non sarà consigliabile circolare nelle zone limitrofe alla Cecenia. E lo scrupolo dei capi del Dipartimento arriva a compilare un elenco di episodi passati di terrorismo appena avvenuti recenti a partire da agosto, senza tuttavia accennare a quelli che eventualmente potrebbero accadere tra oggi e il prossimo 5 marzo, appunto, che viene citato come data di fine allerta. È impossibile non farsi una domanda, dunque: che cosa sanno le autorità americane di quanto non è ancora accaduto, ma che potrebbe accadere a partire da adesso sino ad una data in cui ci saranno certamente stati altri spostamenti del cosiddetto ordine mondiale dopo l'elezione del nuovo presidente americano? E sino a pochi giorni fa e adesso che più man mano ci avviciniamo all'11 settembre, e ci poniamo una serie di domande, tanto più perché il 2 novembre si concluderà, come tutti sanno, la campagna presidenziale e ci sembra strano che vengano avvertiti in questo momento, come pure rimarchiamo peculiare se non altro, forse una tragica coincidenza, che questo attentato drammatico sia avvenuto proprio in concomitanza con la fine della convention repubblicana a New York. E dunque ci chiediamo perché così drasticamente impedire ai cittadini americani, addirittura proibire a coloro che lavorano per lo Stato, di non recarsi in queste zone. E che Putin stia passando un momento in cui gli americani gli premono contro lo prova il fatto che il divieto di andare in Cecenia vige per i normali cittadini, apparentemente il Dipartimento di Stato non pone alcun divieto invece alla permanenza delle forze NATO che da mesi sono presenti nella zona con la piena approvazione di Washington e che sono lì, tutti dicono, per sconfiggere il terrorismo, risulta invece che sono lì per favorire il passaggio di armi tra la vicina Georgia e la Cecenia. Giustamente non potrebbe esserci un terrorismo ceceno se non venisse favorito questo spostamento di armi da una zona all'altra. È una realtà molto più triste quindi di quanto possa apparire, e verso la quale è opportuno e necessario addirittura rimanere lucidi, perché sarebbe meglio non farsi accecare dall'esteriorità delle fiaccolate o dalla solidarietà usa e getta organizzata talmente in fretta da apparire sospetta. E noi non siamo d'accordo con le versioni ufficiali della stampa, e pur non essendo d'accordo con le versioni ufficiali della stampa sentiamo tuttavia a livello umano un profondissimo e sincero dolore per le vittime della strage di Beslan, e proprio per questo, almeno per quanto mi riguarda, ci dissociamo da commemorazioni che minacciano di farne uno spettacolo di varietà. Bianca Cerri per Reporter Associati, Amisnet.